Radio 24 Reportage. Kosovo, i fantasmi della guerra, di Nicola Sessa. Regia e montaggio, Angelo Miotto. Kosovo, giugno 1999. Il mondo guarda al cuore dei Balcani. L'esercito serbo in fuga. Le colonne di profughi che prima erano di kosovari e albanesi verso sud, adesso sono di profughi serbi che prendono la strada del nord. Nel mezzo restano i conti da saldare. Zica Janković, madre di Marian, Belgrado. La tragedia che mi ha travolto ha fatto passare in secondo piano il dolore provato per aver lasciato la casa dove sono nata. Il mio unico figlio Marian è stato rapito ed è scomparso nel nulla. Centinaia di persone scompaiono mentre l'ONU si dispiega nella provincia albanese della Serbia. Molte altre erano scomparse prima e durante la guerra. Mentre il conflitto era nel pieno della sua forza devastatrice, come in tutte le guerre, giravano voci. I miliziani albanesi dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, l'UCK, avevano creato delle prigioni nell'Albania settentrionale, al di là di un confine che tale non era. Si racconta che in quelle prigioni accadevano fatti terribili. Alcuni prigionieri venivano nutriti e preservati da maltrattamenti e torture per un fine inconfessabile: l'espianto dei loro organi, da rivendere sul mercato nero internazionale. Verica Tomanović, moglie di Andrija, Belgrado. Hanno rapito un uomo che ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri. Un uomo che dopo la risoluzione ONU 1244 è rimasto al suo posto nell'ospedale di Pristina. Zica Janković è la madre di Marian. Ha la faccia stanca di chi è stanco della vita, il sorriso metallico di chi ha incassato un colpo in più di quel che poteva sopportare. La dignità di Zica, i suoi modi gentili, la voce pacata sono un monumento al dolore. Il suo appartamento è ben curato. Le pareti dai colori tenui trasmettono una serenità che non sfonda però la barriera che quella madre ha imparato a costruirsi intorno. Fino al 1999 sono stata a Pristina, dove sono nata. Ho vissuto il terrore albanese, ne sono stata vittima e per questo sono stata costretta a lasciare la mia terra, a trasferirmi qui in Serbia centrale. La tragedia che mi ha travolto ha fatto passare in secondo piano il dolore provato per aver lasciato la casa dove sono nata. Il mio unico figlio Marian è stato rapito ed è scomparso nel nulla. È sparito il 9 settembre del 2000. È stato visto salire a bordo di un taxi arancione davanti alla sede di Radio Contact. Da allora non è mai più tornato. Mio figlio Marian aveva 24 anni quando è scomparso. Ci eravamo visti per l'ultima volta a Belgrado, nel gennaio del 2000, per festeggiare il Natale ortodosso. Circolavano diverse voci sull'esistenza di un traffico d'organi. Quante volte mi è capitato di incrociare per strada, negli autobus, degli occhi che mi sembravano i suoi. Zica è venuta a Belgrado subito dopo la guerra. Il suo matrimonio con un albanese era finito. Marian, il figlio, aveva deciso di rimanere a Pristina, la città che non avrebbe lasciato per nessuna ragione al mondo. È difficile capire cosa provo. Un giorno mi sveglio con la speranza che squilli il telefono. Questo è il motivo per cui non ho mai cambiato numero, perché questo è quello che lui conosce. Poi il giorno passa così, senza che accada nulla, e io cado in depressione. Perdo ogni speranza. Conservo di lui una cosa molto rara. Per tanto tempo Marian ha portato i capelli lunghi. A un certo punto ha deciso di tagliarli. E io, che amavo molto la sua chioma, ne ho conservato una ciocca. Ho molti ricordi, tante cose che mi ricordano lui, ma che di certo non me lo riportano indietro. Zica punta il dito contro l'omertà della gente del Kosovo e soprattutto contro quella degli internazionali che si barricano dietro il reticolato della burocrazia. Il nonno paterno è rimasto a Pristina fino al 2005 per cercare informazioni, ma nessuno sa niente, in un territorio così piccolo. Marian era registrato al numero 122 del registro UNMIP del Missing Person Office. È stato il nonno a denunciare la sua scomparsa. Quando in seguito siamo andati in Kosovo, al dipartimento che si occupa delle persone scomparse, ci hanno fatto vedere i registri, ma erano vuoti, all'interno non c'era nessuna documentazione. Verizia Tomanovic è una Penelope dei giorni nostri. Sono trascorsi 11 anni dal 24 giugno del 1999, quando suo marito Andrea, primario dell'ospedale di Pristina, è sparito nel nulla. Verizia, una donna raffinata e colta, non ha ancora perso la speranza. Non è facile parlare della persona più importante della mia vita, il padre dei miei figli. Siamo stati insieme 40 anni, poi, all'improvviso, il buio. Una tragedia che io non riesco ad accettare. Per 78 giorni, Andrea ha fatto un turno ininterrotto 24 ore su 24. I feriti erano moltissimi, la sala operatoria era sempre aperta. Non badava a uniformi o etnie. Lasciò l'ospedale dopo quasi 3 mesi di lavoro ininterrotto. Le 1000 modulazioni vocali di Verizia non hanno mai raggiunto le corde del pianto. Eppure era facile aspettarsi il contrario. Non una lacrima ha solcato il suo volto. Eppure era facile aspettarsi che succedesse. Tutto questo è accaduto sotto lo sguardo dei militari della KFOR, che erano disposti davanti al cancello dell'ospedale e tra la clinica di chirurgia e quella di ginecologia. I soldati non hanno minimamente reagito. Siccome non avevamo più sue notizie, abbiamo cominciato a telefonare a casa ogni 15 minuti per sincerarci che fosse arrivato. Quello è stato il giorno più lungo e difficile della mia vita e di quella dei miei figli. Per tutta la notte abbiamo chiamato i nostri cugini, gli amici, ma nessuno di loro aveva sue notizie. Il mattino seguente ho chiamato la KFOR, ho denunciato la sua scomparsa. Solo allora mi resi conto che Andrea il buono, Andrea l'onesto, era spacciato. Non riesco a capacitarmene. Sulla sorte di mio marito sono girate diverse voci, informazioni. Nel 2000 mi dissero di aver visto mio marito in un ambulatorio mobile. Noi non potevamo fare altro che avvertire l'UNMIC e la Croce Rossa. Verizia ha raccontato tante volte la sua storia. Non si tira mai indietro perché ogni volta che sfoglia le foto, ogni volta che prende dall'armadio l'abito grigio di Andrea, quando scalda tra le mani il metallo della medaglia che la Croce Rossa ha conferito a suo marito, Verizia tiene in vita Andrea e la tela di Penelope, la tela della speranza, si allunga ancora un po'. Io sono convinta che la KFOR fosse a conoscenza di tutto, ma ogni volta che mi rivolgevo a loro, l'unica risposta che ricevevo era il silenzio. Mi sentivo impotente, avevo la sensazione che Andrea aspettasse che io lo trovassi, che facessi tutto il possibile per salvarlo. Ancora oggi penso che possa essere ancora vivo. Io non perdo la speranza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.